Bruciore di stomaco? Dalle coltivazioni e dalla ricerca Aboca, gli estratti vegetali di Bioanacid proteggono la mucosa dello stomaco dall'attacco dell'acidità. Bioanacid protegge lo stomaco, alleviando il bruciore. Bioanacid da Aboca. Autorizzazione ministeriale dell'11 gennaio 2013. Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati, Der Lindenbaum di Franz Schubert. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e riprendiamo oggi il nostro viaggio nel viaggio, il viaggio nella Winterreise di Franz Schubert. Il viaggio nel viaggio d'inverno, questo ciclo straordinario di 24 Lieder, che sono qualcosa di più di un ciclo di Lieder, sono un viaggio dell'uomo, una specie di categoria spirituale, il Wanderer, il viandante romantico che lascia il mondo abbandonato dall'amata, ma chissà che cos'è questa amata, e si allontana in questo inverno terribile, cupo, dove tutto gli è contro, gli elementi della natura, la solitudine, i cani, eccetera, eccetera. Oggi in realtà incomincio dal numero 5, più che incominciare, dedichiamo l'intera puntata di oggi al quinto, che è forse il lead più noto della Winterreise, cioè il Tiglio, Der Lindenbaum. Avevo sempre puntato fino adesso come centro di attenzione al rapporto testo-musica, identificando in una modalità schubertiana una straordinaria capacità, cioè il testo non viene di solito né seguito parola per parola dalla musica, né viene abbandonato dalla musica, ma Schubert identifica in ogni lirica da lui utilizzata un centro di interesse e su questo conforma la struttura, la forma, i temi, gli elementi motivici. In questo caso, e avevo anche fatto notare che in tutta la Winterreise c'è un elemento fisso, e cioè un tipo di rapporto presente-passato. In quasi tutti i Lieder il viandante si trova in un presente freddo, teso, cupo, con elementi nemici, e durante la lirica c'è sempre l'attimo del ricordo, c'è qualche cosa che lo riporta a primavera, luce, a qualcosa di più morbido, e spesso nei Lieder questo rapporto conduce a un'alternanza di elementi dell'uno e dell'altro tipo. In questo caso, nel Tiglio, il rapporto è più complesso, cioè non c'è il semplice accostamento diretto passato-presente. Quindi passerei subito a leggervi il testo del Tiglio e poi a commentarvelo e poi incominciamo il nostro viaggio all'interno del Lied. Si tratta di 3 strofe di 8 versi ciascuna. Io mi fermerò senza dire prima, seconda strofa, mi fermerò un attimo tra la prima e la seconda, tra la seconda e la terza, per farvi capire il punto di passaggio. Alla fonte, davanti al portone, vi è un Tiglio. Disteso alla sua ombra facevo sogni d'oro. Nella corteccia incidevo tante dolci parole. Lieto o triste che fossi, sempre la pianta mi attirava. Oggi vi sono passato davanti nella notte oscura, al buio ho chiuso ancora gli occhi, e i suoi rami mormoravano come per dirmi: vieni da me, amico, qui troverai la pace. Il vento freddo mi soffiava in faccia, mi volò il cappello dalla testa, non mi voltai. Ora varie ore di cammino mi separano, e ancora lo sento mormorare: là troveresti la pace. Se diamo uno sguardo e analizziamo un attimo il testo, ci accorgiamo che questa volta il passaggio presente-passato è un po' continuo. Ad esempio, se prendo la prima strofa, si incomincia al presente: alla fonte davanti al portone vi è un Tiglio, e tuttavia subito dopo, disteso la sua ombra, facevo sogni d'oro. Nella corteccia incidevo, lieto triste che fossi, sempre la pianta mi attirava. Va detto quindi che la prima strofa è soprattutto protesa al passato. Il Tiglio è qui adesso, ma prevale il ricordo. Nella seconda si parte viceversa dal presente oscuro. Oggi vi sono passato davanti nella notte oscura, ma subito dopo, al buio, ho chiuso gli occhi, e quindi chiudendo gli occhi non vedo l'oscurità brutta, o chiudendo gli occhi ho il ricordo, e infatti dice: i suoi rami mormoravano come per dirmi: vieni da me, amico, troverai qui la pace. La terza strofa è l'unica che brutalmente, infatti sentiremo l'interpretazione musicale, parla di un presente terribile, cioè il vento freddo mi soffiava in faccia, mi volò il cappello dalla testa, non mi voltai, qui c'è poco da chiudere gli occhi e sognare, insomma. Ma gli ultimi quattro versi, cioè la seconda metà della stessa strofa, rimescalano le carte, perché ora varie ore di cammino mi separano, cioè sono nel presente, ma lo sento mormorare, là troveresti la pace. Incominciamo ad ascoltare l'introduzione pianistica e poi la commenteremo. Facciamo un piccolo commento. Intanto, questo movimento, queste terzine che io non so fare così veloci, ma insomma, anzi, facendole lente si capisce meglio cosa succede. Questo ondeggiamento, questo, evidentemente ha un riferimento diretto, il riferimento poi scopriremo dopo che vita vivrà, alle fronde, a queste fronde che oscillano, a un tiglio frondoso che si muove a un dolce vento, ma c'è un secondo elemento subito dopo, questa piccola nota separata, anzi questa piccola coppia di note, quando si appoggia qui, c'è questo. Questo è forse l'elemento più importante in partenza di questo lead, cioè il richiamo. Tutto questo lead è basato sul fatto che il tiglio richiama. Il tiglio è l'alterità di questo lead. Il viandante non trova mai nessuno con cui parlare, ma parla a volte quando gli riesce con la natura, e per una volta è una natura amica. E questo richiamo indica che durerà per tutto il lead, perché ritornerà ciclicamente, e ancora l'ultimo verso e ancora lo sento mormorare, là troveresti la pace. Il secondo elemento di richiamo, qui Schubert tira in ballo un elemento retorico che non c'entra direttamente, ma che a tutti noi riporta una certa cosa, le cosiddette quinte dei corni. Con tanto di pianissimo in eco la seconda volta. Questo è proprio il richiamo da lontano dei corni ottocenteschi o che chiamano lontano. Ascoltiamo adesso la prima strofa e poi parliamo di quello che succede. Träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seiner Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und la costruzione di queste battute è quello che si dice facilmente AABB, cioè ci sono due elementi, due frasi. Due volte. E un secondo elemento, anche lui due volte. In questa prima strofa, perché questa sarà la peculiarità di questo lead che cercherò di sottolineare, il pianoforte è strettissimamente connesso alla voce. Se vi suono la parte pianistica, dovete capire che comprende già la parte vocale. Qui se ne stacca leggermente. Non c'è il frammento superiore. L'unica intercalare pianistico tra una frase e l'altra richiama, scusate la ripetizione, richiama il famoso richiamo, cioè gli intercalari sono, che ricorda chiaramente le quinte dei corni, e la seconda volta, che che richiama chiaramente il do si iniziale. Perché sottolineo questo? Perché questa fusione totale pianoforte voce in questo momento, che è abbastanza anomala rispetto al leader di Winterreise, segnala la massima fusione, il momento di massima fusione tra l'uomo e il tiglio. Il verbo fondamentale è quello dell'ottavo verso, cioè sempre la pianta mi attirava, e in questo attirarsi ecco che c'è la massima fusione dei due, meno in questi piccoli intercalari che comunque sono un richiamo, il richiamo del tiglio al viandante, la loro unione massima. Ma ecco che arriva il famoso minore, quello cioè il passaggio da mi maggiore a mi minore, che di solito segnala il passaggio al presente oscuro. Sentiamo l'introduzione pianistica che passa in minore. Che cosa è sparito e che cosa rimane? Beh, quello che succede è che è passato in modo minore e ci predispone ai primi due versi prossimi, che saranno oggi vi sono passato davanti nella notte oscura. Ma che cosa succede? Succede che quel richiamo superiore che era fatto da una seconda maggiore, come dire, piuttosto lieta, piuttosto serena, è diventato la patetica seconda minore. Un richiamo molto più dolente del precedente. Sono scomparse le quinte dei corni perché non ci può più essere una dolce eco, e viene ripetuto il richiamo, questo acuto di poco fa, con la seconda minore nella regione grave. A questo punto c'è la strofa successiva, che è in modo minore, però c'è una sorpresa. Di solito quando si passa in minore c'è un secondo elemento motivico, e invece proviamo a sentire qua cosa succede. Dalla codina dello sfumato avete già capito come va a finire dopo. Quello che succede è che non c'è un'altra cellula motivica. La cellula motivica è la stessa di prima. Soltanto in modo minore. Prima era. È assolutamente la stessa. Il che vuol dire che questo passaggio nella notte oscura non è ancora però il momento della tragicità, cioè il momento della ostilità, è ancora un momento in cui il tiglio è un amico, e infatti tra poco si chiudono gli occhi. L'altra osservazione da fare è che il pianoforte incomincia a distaccarsi dalla voce, e questo è un caso unico in Winterreise. L'elemento pianistico durante il tema diventa, cioè è diventata un'altra cellula. Quello che succede in questo lead di assolutamente unico è che le cellule motiviche della voce sono sempre le stesse, e il pianoforte invece cambia sempre. Il numero di varianti è piuttosto alto e segnala esattamente il progressivo distacco del pianoforte barra tiglio dal viandante. Ma passiamo all'ascolto successivo, che è semplicemente la continuazione della frase ed è la seconda metà della stessa strofa, della seconda strofa. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Avete capito quello che è successo? Cioè la cellula motivica continua, ma è ritornata in maggiore. Cioè se il passaggio minore era questo, la seconda frase, che prima non segue in minore, la seconda frase ritorna in maggiore. E cioè capite che il rapporto maggiore e minore è molto più sfumato che in altri leader. Ma perché? Perché qui sta dicendo che i suoi rami mormoravano come per dirmi vieni da me amico, cioè seppure siamo nel presente, nella notte, al buio e al freddo, questo tiglio rimane amico. quindi si ritorna in maggiore, e tuttavia ormai il pianoforte rimane separato, perché mentre la prima volta nella prima strofa qui il pianoforte seguiva la voce ed era... Sentite che la stessa cellula, la voce superiore del pianoforte è uguale alla voce. In questo caso no, la voce è... Il pianoforte fa tutt'altro. In realtà allude alle quinte di corni. In ogni caso è un altro elemento motivico. L'alterità ormai si è formata e il Tiglio, pur amico, incomincia a essere, come dire, distaccato. Infatti a che cosa si arriva? Si arriva alla strofa definitiva, quella dove non è possibile nessuna consolazione, cioè il vento freddo mi soffiava in faccia, mi volò il cappello dalla testa, non mi voltai. Ascoltiamo intanto quello che succede all'introduzione pianistica in questo passaggio drammatico e violento. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopf. È simpatico notare come in questo caso per un momento Schubert si distacca dal testo. In realtà questi quattro versi, sono i primi quattro versi della terza e ultima strofa, non concedono nessuna possibilità, ripeto, di consolazione. Cioè il vento freddo mi soffiava in faccia, mi volò il cappello dalla testa e io non mi voltai. Quindi non ci sarebbe una possibilità di, come dire, di redenzione, di tornare sereni, ma invece avrete sentito che questo scoppio in cui l'articolazione precedente oscilla tra un do e un si, tra un accordo di do maggiore e un accordo di si maggiore, cioè si appoggia a una dominante, ma questo do si era quello del richiamo. Alla fine, in realtà, mentre il testo ha detto non mi voltai, anche se il cappello mi è volato via dalla testa, in realtà la musica ritorna in maggiore e si rispegne sulle quinte di corni. Cioè questo Tiglio in qualche modo segnala continuamente una tenerezza in cui soltanto uno scoppio si è allontanato per un momento, ma in realtà siamo ancora tornati lì. E infatti che cosa succede adesso? Succede che ci sono gli ultimi quattro versi, che si potrebbero leggere in due modi diversi, ma Schubert sceglie un tipo di taglio. Ora varie ore di cammino mi separano, quindi anche l'unico amico del suo viaggio si è allontanato, il Tiglio è ormai lontano. Ma poiché si dice ora varie ore di cammino mi separano, ma aggiunge e ancora lo sento mormorare, là troveresti la pace, si sceglie in realtà di far prevalere quest'ultimo aspetto. In fondo devo dire che Der Lindenbaum, che è uno dei leader più amati della Winterreise, deve forse questo particolare amore, al di là della sua straordinaria bellezza, anche al fatto che in qualche modo apre nella drammaticità della Winterreise uno spiraglio di luce, cioè in fondo almeno un amico l'ha trovato, e anche se si sta allontanando dice là troveresti la pace, vieni, torna da me, qui troveresti la pace. Sarebbe è curioso il fatto che da lontano sente là troveresti la pace anziché qui in discorso diretto. Cosa succede quindi? Che c'è una ripresa in maggiore, proviamo ad ascoltarla. Manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort, du fändest Ruhe dort. non ho voluto parlare sopra perché è quasi impossibile parlare su questa bellezza straordinaria. Qual è la considerazione importante? Che ritorna il tema, ma ancora una volta il pianoforte diverso, cioè l'articolazione pianistica è... Che cosa è successo? Che per una volta si scopre un registro medio-acuto. In fondo quel pianoforte era sempre piuttosto scuro, la prima era da queste parti, con questo Mi. In questo caso tutto è qui. Ed è diventato un vero e proprio controcanto, cioè il tiglio lontano richiama il viandante con una linea melodica alternativa alla sua, che rimarrà inascoltata perché il viandante non torna indietro. Riassumendo, Der Lindenbaum si presenta come un lead di particolare complessità nei confronti del testo, perché Schubert sceglie una via, che è quella di ridurre al minimo per una volta la tragicità del presente, e sceglie una linea di canto che ripete continuamente una strofa, mentre il pianoforte cambia continuamente la sua formula, ma non per fare delle variazioni, ma per segnalare un'unità che a poco si scioglie tra tiglio e viandante, e sceglie anche di far attraversare a questa cellula il minore, in modo che sia tutto unito da un unico tema che, come dire, cambia tinta, colore, tono, diventa drammatico, ritorna sereno a seconda delle pieghe sottili del testo. Tutto questo si conclude poi con il ritorno, come se nulla fosse successo, all'introduzione pianistica iniziale, perché in fondo il tiglio è sempre rimasto là. E per una volta credo di essere riuscito a farvi attraversare questo lead, facendovene scoprire alcuni aspetti, tenendomi forse i minuti finali per farvelo ascoltare da capofondo. Non so se ci starà tutto, ma forse sì. Se no, vi ricordo che potete ascoltarlo nel sito di Radio 3. Quindi Der Lindenbaum, non ho detto che si tratta sempre di Dietrich Fischer-Dieskau, questa straordinaria voce effettivamente, che vi fa ascoltare il quinto lead da Winterreise, Der Lindenbaum. Io vi saluto e vi do appuntamento domani.